Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema sempre attuale e sempre rintracciabile nelle colonne dei nostri giornali, nelle cronache politiche, non soltanto, quello della giustizia. Ne parliamo affrontando una categoria che è considerata una delle protagoniste di questo tema, ma non è la categoria dei magistrati e dei giudici alla quale normalmente si pensa quando si parla di giustizia. Invece parliamo degli avvocati, una categoria altrettanto importante, ma di cui probabilmente si parla meno, e ne parla in un libro un magistrato, Paolo Borgna, che appunto esercita la magistratura a Torino. Il libro si intitola Difesa dagli avvocati, scritta da un pubblico accusatore, pubblicato dalla Terza, 118 pagine, 10 euro. Il titolo riecheggia quello famoso di un classico della letteratura civile del nostro paese, L'elogio dei giudici, scritto da un avvocato, di Piero Calamandrei. Qui invece appunto è un magistrato che non soltanto parla degli avvocati ma ne parla bene, e quindi questo libro saranno certamente felici di leggerlo gli avvocati, perché il libro vuole sottolineare non soltanto il loro ruolo, che è decisivo nello svolgimento dei processi, ma anche l'importanza del rapporto tra giudici, magistrati appunto e avvocati, un rapporto che spesso è avvelenato dalla tentazione dei primi, cioè dei giudici e dei magistrati, di sentirsi moralmente superiori. Perciò l'autore riprende le parole che Piero Calamandrei appunto aveva scritto oltre mezzo secolo fa, quando metteva in guardia contro il tranello, scrive, di pensare di avere il monopolio della dedizione per la cosa pubblica, e che solo la magistratura sarebbe degna di essere considerata come un apostolato, mentre l'avvocatura, quella sì, sarebbe soltanto un mestiere. No, l'avvocatura è una professione importante, ed è importante soprattutto per i giudici e per i magistrati. Scrive Borgna: l'avvocato ci insegna ogni giorno, e aggiunge: l'avvocato aiuta il pubblico ministero a difendere la sua salute mentale. Quindi da questo punto di vista il libro può interessare tutti, perché affronta da un'angolazione nuova e originale gli eterni problemi della giustizia, sui quali Borgna lancia anche qualche provocazione, e non è la prima volta, ai suoi stessi colleghi. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Paolo Borgna. Buongiorno. Dottor Borgna, lei in questo libro vuole sottolineare il ruolo degli avvocati e riaffermare, come scrive, la capacità di passione civile dell'avvocato. Come mai ha sentito l'esigenza di sottolineare questo ruolo e enfatizzare questa passione civile dell'avvocato? Ma io ho scritto questo libro innanzitutto per una ragione di riconoscenza verso Paolo Frau, a cui il libro è dedicato, che è l'avvocato di Alba, presso il cui studio molti anni fa, alla fine degli anni 70, esercitai la pratica. Questo è il motivo, diciamo così, affettivo. Il motivo più di attualità, diciamo, per aver scritto il libro è dovuto alla convinzione profonda che io ho, che oggi tutta la discussione che si fa sulla giustizia, la discussione sulle riforme possibili, eccetera, eccetera, non sfruttano la ricchezza di esperienze professionali che magistrati e avvocati insieme maturano ogni giorno nelle aule di giustizia. Questa grande esperienza, questa capacità di confrontarsi, che è molto più profonda e più seria di come appare in pubblico, noi non la mettiamo a frutto, e le riforme spesso sono improvvisate, sono il frutto di istanze politiche dell'ultimo momento, a volte di interessi personali, sono riforme stiracchiate, mal combinate, perché manca alla base questo movimento culturale forte, ampio, profondo, che potrebbe dare forza, vigore, nervo, diciamo, alle riforme di cui veramente abbiamo bisogno. Penso che l'avvocatura possa giocare un ruolo fondamentale in questo. Ma questa sua convinzione quanto è condivisa dai suoi colleghi giudici e magistrati? Ma io penso che oggi entrambe le corporazioni, chiamiamolo così, siano molto arroccate per una serie di ragioni storiche. La magistratura dall'inizio degli anni 80 in poi è stato spesso attaccate, ci sono state nei suoi confronti quelle che vengono chiamate giornalisticamente le campagne di delegittimazione. Gli avvocati, d'altro canto, si sono sentiti spesso messi nell'angolo, non considerati sufficientemente dagli avvocati, dai magistrati, accusati di voler trasferire fuori dalle aule giudiziarie le loro battaglie di questo quel processo, questo purtroppo a volte è accaduto, tutto questo ha fatto sì che la incomunicabilità tra avvocatura e magistratura sia sicuramente aumentata in questi anni. Questo però è il, diciamo così, il livello pubblico del confronto tra avvocatura e magistratura. Il livello più sotterraneo o se preferiamo del terreno quotidiano, dell'esperienza quotidiana, è diverso. L'esperienza quotidiana ci insegna che ogni giorno noi ci arricchiamo a vicenda, ogni giorno noi partendo dai problemi della giustizia del quotidiano ci confrontiamo e spesso ci troviamo più d'accordo di quanto non appaia in pubblico, di quanto non appaia dalle prese di posizione, ad esempio, delle nostre istanze associative, eccetera, eccetera. Lei rivolge delle critiche abbastanza esplicite ai suoi colleghi. A un certo punto, per esempio, all'inizio del libro scrive che non esiste una superiorità della funzione sociale dei magistrati. Invita i colleghi a riflettere sul significato dell'indipendenza, della legittimazione, della responsabilità, accenna perfino al tema dell'elezione di cui si comincia sempre più spesso a parlare, di alcuni gradi della magistratura, e del resto queste sue critiche le aveva già scritte in un libro precedente scritto con Marcello Maddalena. Ecco, come sono accolte dai suoi colleghi questi rilievi, questi inviti a riflettere su se stessi? Sì, ecco, sull'elettività io dico che è una soluzione dei problemi che può essere molto affascinante in astratto, che però in concreto si realizzerebbe creando dei problemi molto seri, e quindi non è un'ipotesi che io coltivo, vorrei dire questo. Più che critiche sono riflessioni sulla chiusura nostra. Noi come magistrati, anche in conseguenza di quel clima da cittadella sediata che abbiamo vissuto ormai negli ultimi decenni, in conseguenza di questo è nata all'interno della magistratura, soprattutto tra le generazioni di giovani magistrati, un po' l'idea che soltanto i magistrati sono capaci di grandi passioni civili, grande dedizione alla cosa pubblica, eccetera, eccetera. Noi abbiamo avuto dei grandi eroi che sono Falcone, sono Borsellino, sono tutti i tanti magistrati che dagli anni del terrorismo in poi sono morti, uccisi appunto dal terrorismo o dalla mafia, e quindi c'è un orgoglio professionale molto forte che ad esempio i giovani sentono e che è anche giusto da un certo punto di vista. Però questo non ci deve far dimenticare che noi non siamo gli unici detentori della capacità di essere, diciamo così, appassionati servitori dell'interesse pubblico. Gli avvocati hanno dimostrato in passato, e c'è un capitolo intero dedicato alle figure simboliche di Giorgio Ambrosoli, ucciso per il ruolo avuto come liquidatore della Banca Privata Italiana, è dedicata anche a un altro grande eroe della magistratura, Fulvio Croce, ucciso dalle Brigate Rosse a Torino perché accettò di essere nominato difensore d'ufficio nel processo ai capi storici dell'IBR. Io dedico questo capitolo a questi avvocati per ricordare al giovane lettore immaginario che anche l'avvocatura ha i suoi eroi, che anche all'interno dell'avvocatura sono state scritte pagine importanti della storia italiana, che quindi noi dobbiamo guardare anche per questo con rispetto ai nostri, quelli che a un certo punto chiamano i nostri fratelli avvocati. Bene, grazie mille. Grazie a lei. Il libro di Borgna affronta, tra gli altri, uno dei temi più controversi e discussi dell'attuale dibattito, cioè quello del rapporto tra la magistratura e l'informazione. E allo stesso tema accenna un libro scritto invece da un giornalista, da un collega importante, Michele Brambilla, che è il vice direttore del Giornale e che ha pubblicato Sempre meglio che lavorare, il mestiere del giornalista, PM, 218 pagine, €14,50. Il libro è ironico e dissacrante fin dal titolo, che riprende, come forse molti di voi ricorderanno, il celebre aforisma di Luigi Barzini Junior. Brambilla presenta qui dall'interno la nostra professione, ne dissacra alcuni miti, per esempio quella del grande inviato, invita tutti noi, e non soltanto, a non prenderci troppo sul serio. Ritroviamo le figure dei direttori con cui Brambilla ha lavorato, in particolare Indro Montanelli, la ricostruzione di alcuni ambienti come quello del Corriere della Sera, la sottolineatura dell'imponderabilità della carriera giornalistica, come dimostra l'episodio di Dino Buzzati, che al Corriere della Sera veniva chiamato nei primi tempi Cretinetti, finché un suo collega si accorse per caso del manoscritto che Buzzati aveva preparato, Barnabo delle Montagne, e naturalmente riconobbe nell'autore di quel capolavoro un grande professionista. Un'altra professione che mantiene sempre il suo fascino, un fascino particolare, è quello dell'editore, che troviamo descritta nel libro di Marco Cassini, Refusi, diario di un editore incorreggibile, pubblicato dalla Terza, 118 pagine, 9,50 euro. L'autore e il fondatore è uno degli amministratori di Minimum Fax, la casa editrice romana che venne avviata avventurosamente appunto nel 1993, che si affermò poi soprattutto con la pubblicazione delle opere del grande scrittore americano Raymond Carver. E qui troviamo una cronaca brillante e spiritosa sul fascino di questa professione, scoperta da due ragazzi squattrinati che sentono crescere la passione del libro e soprattutto dimostrano una grande capacità di costruire un'attività editoriale dall'identità spiccata che ne ha determinato il successo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Martedì dunque entra in carica e giura il nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Facciamo tanti auguri a lui e al suo paese con un libro di un grande scrittore americano, certamente uno dei più celebri del Novecento, insignito col premio Nobel per la letteratura nel 1962, John Steinbeck, di cui Alet pubblica L'America e gli americani e altri scritti. Il libro è curato da Bruno Osimo, 316 pagine, 19,50 euro. Steinbeck fu una figura certamente atipica nel panorama intellettuale degli Stati Uniti del suo tempo, uno che si sentiva, come ricorda il curatore citando Arthur Miller, più un contadino che scriveva che non un intellettuale, molto nostalgico della sua California d'origine, delle sue origini modeste, capace però di scavare nella realtà del suo paese con l'acume del grande cronista. E di questa capacità troviamo in questi scritti varie testimonianze dedicate alcune ai luoghi del cuore, altre alle battaglie dell'intellettuale al suo impegno civile, altre ancora ai luoghi visitati, c'è tra l'altro un capitolo su Positano, o sulle guerre osservate da vicino, come quella del Vietnam, dove combatterono due figli dello stesso scrittore. Vi propongo dal libro di Steinbeck queste righe del 1954, intitolate «Sono un rivoluzionario», nelle quali Steinbeck spiega le ragioni della sua distanza dal marxismo esaltando i caratteri propri che si ritrovano nella civiltà del suo paese. Vittima di questo sistema selvaggio è l'individuo. L'individualità va distrutta in quanto pericolosa per tutti i piani reazionari. L'individuo è creativo e la creatività fuori dall'angusto modello dello status quo è intollerabile. La creatività si fonda sull'indagine e sulla critica, che sono oggetti di anatema per i reazionari. Il pensiero, proprietà esclusiva dell'individuo, va eliminato. Il singolo cervello umano che lavora per conto proprio è l'unico organo creativo in natura. Il gruppo non crea nulla, al massimo realizza la creazione dell'individuo. La reazione deve compiere la propria scelta. Per proteggersi da un esame ravvicinato, deve eliminare domande e critiche. Ma eliminando l'individuo, devono anche abbandonare l'opera dell'individuo. Devono abbandonare la letteratura, la musica, l'arte. Ecco la mia rivolta. Credo nel diritto dell'individuo di funzionare da individuo senza alcuna pressione e mi batterò per questo diritto. Sono decisamente contrario a qualsiasi interferenza nella mente creativa dell'uomo. Sarà sbagliato, ma da questa sono venuti i soli diritti che conosciamo. Il nuovo presidente Barack Obama è già atteso come un nuovo Roosevelt in tempi di grande crisi finanziaria e si aspetta da lui un grande impulso all'economia, addirittura molti sperano in un nuovo New Deal come quello appunto di Roosevelt. E allora sarà interessante leggere un libro sicuramente insolito e che può far discutere, che è quello di uno studioso tedesco che si intitola Tre New Deal, parallelismi tra gli Stati Uniti di Roosevelt, l'Italia di Mussolini e la Germania di Hitler 1933-1939. L'autore Wolfgang Schievelbusch è uno storico tedesco esperto degli Stati Uniti. Il libro è pubblicato da Tropea, 218 pagine, 16,50 euro, tradotto da Guido Lagomarsino. Comparare non è equiparare, avverte subito l'autore. È assurdo, naturalmente, aggiunge, ritenere che un New Deal caratterizzato da collettivismo nazionale e sociale avrebbe trasformato l'America in una versione particolare del modello italiano e di quello tedesco. Però è possibile confrontare l'esperimento condotto fino a prima della guerra dai tre paesi, esperimento che si basavano su alcuni elementi comuni che vengono così riassunti dall'autore: la presenza di un leader forte, un'ideologia che metteva l'accento sulla nazione, sul popolo e sulla terra, il controllo statale dell'economia e del sociale e infine la qualità e la quantità della propaganda governativa. Naturalmente l'America del New Deal, aggiunge, non era uno Stato a partito unico, non aveva una polizia segreta, la sua Costituzione conservava la propria validità e non possedeva campi di concentramento. Il New Deal preservò le istituzioni del sistema liberal democratico. Però un parallelo tra questi tre sistemi basato su alcuni elementi, quelli appunto citati, è possibile, e questi elementi vengono qui studiati e approfonditi con un corredo anche iconografico che mette in luce alcuni paralleli anche nell'architettura monumentale di Roma, Berlino e Washington di quegli anni. Torniamo alla letteratura americana. Abbiamo parlato di Steinbeck, poco più giovane di lui è William Faulkner, che vinse anche lui il Nobel per la letteratura nel 1949. Di lui Adelphi ripropone uno dei titoli più famosi, La paga dei soldati, è un libro del 1926, 292 pagine, 19 euro. Il libro è tradotto da Mario Materassi. Questo è il primo romanzo di Faulkner, accolto con molta freddezza all'epoca, che parte da una mancata esperienza personale, perché Faulkner voleva partecipare alla Prima Guerra Mondiale come pilota, fu scartato per ragioni di altezza, si arruolò come volontario allora nell'aeronautica canadese, facendosi passare come inglese, ma non fece in tempo a partecipare alla guerra perché sopraggiunse l'armistizio. Qui invece nel romanzo il protagonista è uno che alla guerra ha partecipato come pilota, si chiama Donald Mahon, ha avuto un bruttissimo incidente che lo ha lasciato sfigurato, ritorna a casa e qua la sua vita si incrocia con quella di tre donne, l'ex fidanzata, la governante e una giovane vedova, ed è in questo intrico di relazioni complesse dall'esito imprevisto che si costruisce lo stile della maturità del grande scrittore americano. Vediamo adesso uno scrittore che il pilota riuscì a farlo veramente, ma nella Seconda Guerra Mondiale, fino a perdere misteriosamente la vita, Antoine de Saint-Exupéry è il protagonista del romanzo di Riccardo Danna, Saint-Ex, è pubblicato da Vagliano, 204 pagine, 13 euro. Questo romanzo ricostruisce proprio la scomparsa del grande scrittore, l'autore che tutti ricorderanno del Piccolo Principe, che si leva in volo il 31 luglio del 1944 dalla Corsica per un'operazione su Lione per non tornare mai più. Le ultime immagini di Saint-Exupéry aviatore, tra l'altro, le possiamo ammirare nella mostra che è in corsa a Cagliari al Centro Comunale d'Arte e Cultura EXMI fino al 31 gennaio, Guerra e Pace, John Phillips, testimone del Novecento. Phillips è uno dei grandi fotografi e fotogiornalisti del Novecento, uno dei maestri anzi del fotogiornalismo, particolarmente legato all'Italia, e con Saint-Exupéry va dal 10 al 30 maggio del 1944 ad Alghero, dove si trova sotto il comando americano la squadriglia francese presso la quale lo scrittore francese si fa assegnare. Ed è proprio indirizzato a Phillips l'ultimo scritto di Saint-Exupéry, la lettera a un amico americano, e dell'amico americano vediamo qui le foto che scattò allo scrittore pilota a terra, in aereo e in volo sulla costa di Alghero pochi giorni prima che andasse in Corsica e partisse poi per l'ultimo volo, quello che costò la vita a Saint-Exupéry. E dal saggio pubblicato nel catalogo di Alinari 24 ore di Stefano Del Re vi propongo queste righe appunto sull'ultimo volo di Saint-Exupéry. Il 31 luglio 1944 si alzò in un volo un'ultima volta dalla Corsica per una missione su Lione e non tornò più. Scomparso? Volatilizzato misteriosamente? Abbattuto? Affondato? Disintegrato? Incidente? Suicidio? Perso nel cielo su una stella come il suo principino immortale? Per 64 anni il mito continuò ad alimentarsi nelle ipotesi più astruse, con battaglie a distanza tra storici, letterati, scrittori, aviatori e cartomanti. Finché nel marzo 2008 un 80enne ex comandante pilota della Luftwaffe dichiara di essere sicuro di averlo abbattuto lui, proprio sul punto dove 4 anni prima erano stati rinvenuti i resti dell'aereo, ma non il corpo dello scrittore. Un mito che non vuole saperne di finire, che nessuno riesce a catturare. Un'eterna infanzia. agli appassionati di fotografia segnalo adesso un titolo dedicato a un altro tra i maggiori maestri del Novecento, Henri Cartier-Bresson, il cui nome dà il titolo al libro di Jean Clerc Tra ordine e avventure, pubblicato da Abscondita, 78 pagine, 12 euro, tradotto da Francesco Martini. Questo è un breve testo per avvicinarci a uno dei grandi testimoni del nostro tempo, che fu anche disegnatore. Infatti troviamo nel libro alcuni disegni, oltre che alcune delle più famose foto di Henri Cartier-Bresson. E vi voglio proporre proprio queste righe sulle caratteristiche proprie della fotografia che la rendono così diversa dal disegno. Si crede che la fotografia sia vicina al disegno perché anch'essa in prime forme, in bianco e nero, sulla carta. Ma è falso. La fotografia in realtà è molto più vicina all'arte della scultura in bronzo perché, come lei, non permette ripensamenti. Una volta scelto il soggetto, lo scultore in bronzo non può ritoccarlo. L'opera è fissata per sempre. Ugualmente la foto. Nessun ritocco, nessun taglio, nessuna manipolazione successiva allo scatto deve alterare la sua integrità. Il fotografo e il bronzista lavorano nello stesso modo. Non fabbricano immagini, né fissano i tratti. Ogni indecisione, ogni imprecisione, ogni esitazione è loro proibita. Il disegno appartiene a un altro ordine. L'abile, plastico, nasce come una musica. Torna su se stesso, si cancella, si accresce, si completa, scompare o insiste. Solo raramente è perentorio. Il confettino. Restiamo in ambiente americano con Il libro esplosivo di Peter Newell, grande scrittore di libri per bambini, vissuto tra il 1862 e il 1924. Questo libro è pubblicato da Orecchio Acerbo, 48 pagine, 14 euro, tradotto da Marco Graziosi. Di Peter Newell abbiamo presentato qualche mese fa il libro Sbilenco. Qui invece viene costruito il libro intorno a un foro che è al centro di 20 scene di famiglie americane dei primi del Novecento. E le illustrazioni che accompagnano questo libro, con la rappresentazione della scena dell'America di quegli anni, sicuramente incanterà anche i lettori adulti. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrandi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Passo la linea a respiro di Laura Bettini. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.